La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 16 secondi qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast e vi invita a intervenire su una domanda. La domanda è semplice, ricordo il numero di telefono 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, fatemi anche accendere lo schermo del WhatsApp. La domanda è questa: visto che si è compiuto il delitto, se mi consentite la battuta, ieri, e se ne è avuto conferma stamattina a Roma, cioè con il definitivo e formale annuncio che il centrodestra a Roma si presenterà diviso con Bertolaso, che va avanti, ha dichiarato che va avanti comunque, avanti come una ruspa, ha detto stamattina Bertolaso, ma solo candidato di Forza Italia e di Berlusconi. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha sciolto il dilemma, che però già ieri era stato di fatto formalmente sciolto dalla direzione di Fratelli d'Italia, quindi si candiderà anche lei in maniera distinta e concorrente rispetto a Bertolaso e a Berlusconi. Salvini questa mattina, il leader della Lega, ha confermato che appoggia la Meloni e non certo Bertolaso. E la domanda che vi faccio, solo come spunto, perché accogliamo qualunque telefonata di chiunque di voi, sia romano o meno, sia un simpatizzante, elettore, ex elettore o futuro elettore del centrodestra o del centrosinistra o dei 5 Stelle, la domanda è se vi fa l'impressione che questo sviluppo romano sia davvero la fine di 20 anni del centrodestra guida berlusconiana, come oggi scrivono in realtà praticamente tutti i giornali italiani, con pochissime eccezioni, e naturalmente però con argomenti e toni diversi, oppure se invece no, è solo una variante di crescente litigiosità, ma circoscritta al tipo di candidato che Berlusconi ha scelto fuori dai partiti, quindi fuori dalle trattative, in Bertolaso a Roma, e questo non significa che poi altrove in Italia restino, come a Milano con Stefano Parisi, candidato sindaco del centrodestra, e tutti uniti dietro di lui a sostenerlo, resti comunque in piedi il vecchio schema berlusconiano di essere lui che alla fine mette insieme e decide il più. Non è questa però l'opinione prevalente. Voi chiamateci e diteci come la pensate e che risultati avrà dal vostro punto di vista questo frazionamento, ma ripeto, l'opinione prevalente è pressoché univoca. Del resto è da 5 anni, non da un giorno, che va avanti sia pure con sfumature, accenti, sviluppi diversi, la crisi della leadership di Berlusconi. È passata per il trauma europeo, poi nel 2011 per i processi, eccetera eccetera eccetera, ma quello che è evidente è che poi con la nascita dei Fratelli d'Italia e con la leadership che Salvini ha impresso alla Lega, che gli era stata consegnata praticamente il punto di morte, che era nei sondaggi all'1.9%, ricordatevelo, era ufficiato a, per così dire, eseguirne le esequie, e invece lui l'ha portata fino a quasi il 15% nei sondaggi, su una posizione completamente diversa. Basta vedere come Maroni commenta questi sviluppi. Maroni non è d'accordo col fatto che a Roma la Lega dica no a Bertolaso e dica sì invece alla Meloni. Allora bisogna capire un pochino che cosa questo voglia dire. Io vi sottolineo una coincidenza, poi vi richiamo uno dei commenti che più mi è piaciuto, poi vi presento l'ospite dell'altro commento che ho trovato sui quotidiani di oggi, per indirizzare un po' la nostra riflessione, molto molto appropriato. La coincidenza su cui vi invito, sorridendo come ovvio, non prendetemi per uno che prende sul serio questa cosa, però la coincidenza è che ieri era il 61esimo anniversario, anzi no, era proprio il 2060esimo, se uno fa bene i conti, anniversario della di un fatto che insomma è di una certa importanza, perché in un luogo che oggi a Roma coincide con la sede stradale dove c'è il capolinea del tram di fronte al Teatro Argentina, e dove c'era l'ambulacro per accedere alla Curia di Pompeo, 2060 anni fa, ieri, a fine mattinata, poiché nella Curia di Pompeo si riuniva il Senato, perché l'aula ufficiale del Senato, quella che è ancora oggi i suoi resti sono ai fori, erano in corso lavori, e allora il Senato a Roma era convocato in quel giorno di marzo del 44 a.C. nella Cura di Pompeo, e nell'ambulacro che oggi sta appunto dove c'è il capolinea del tram, era là sotto, si ergeva tra il sotto e il sopra, come è noto fu a seguito di una congiura di suoi stessi sostenitori fino a prima accoltellato e ucciso Cesare. Il caso vuole che è lo stesso giorno, 2060 anni dopo, in cui i capi del centrodestra accoltellano Berlusconi. Coincidenza, ovviamente. Allora, uno dei due commenti che mi è piaciuto di più è quello del Messaggero di oggi, ironico come sempre, firmato da Mario Aiello. E Mario Aiello avanza un'ipotesi nel suo articolo che è pieno di ironia, cioè descrive in realtà tutti i capi del centrodestra come un'armata in rotta e per questo divisa, però avanza un'ipotesi, e vi leggo qualche brano per riassumervi questa ipotesi, per vedere se vi convince o meno. Scrive Mario Aiello sul Messaggero: non sarebbe impossibile per Giorgia Meloni trainare a questo punto con la sua candidatura oltre il 10% il risultato elettorale su di lei come candidato sindaco, e quindi risultare anche il primo partito del centrodestra, con tanti saluti finali al vecchio Silvio, il quale per primo la fece ministro, ma ormai sembra passato un millennio. E ora, nella commedia degli equivoci, la Fratella d'Italia un po' fa tandem lepenista anti-berlusconiano con Salvini, il quale fin dall'inizio ha usato Roma come brace su cui cuocere la leadership nazionale di Berlusconi, e un po' però anche ni o no. Però se è vero, continua Aiello, anche se Salvini smentisce, che il capo dei Lombard goda nel vedere Giorgia in campo, i fatti sono due. Se perde la Meloni, e perde pure Bertolaso naturalmente, resta solo Salvini come leader vincente. Se invece la dovesse spuntare per caso la Meloni, Salvini si libera comunque, con Giorgia impegnata in Campidoglio, di una rivale per la guida nazionale del centrodestra. E il capo leghista, quindi, conclude Mario Aiello, forse sta sfruttando Roma per liberarsi, oltre che di Berlusconi, anche della Meloni, in questa reciproca infinità di inganni in cui Salvini, per prendere tempo, aveva detto di sì a Bertolaso. Problemi su di lui? Mai avuti, aveva detto Salvini. E Berlusconi ci aveva creduto, o forse fatto finta di credere. E questa è l'interpretazione tra lo scherzoso, l'ironico e il satireggiante di Mario Aiello sul Messaggero. Ma tra tutti gli altri articoli, a me ha colpito invece l'analisi tra virgolette più seria, meno ironica, che sulla stampa ha fatto il professor Giovanni Orsina, che ha accettato di essere con noi per riparlarne in questo pomeriggio. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi. Allora, lei in buona sostanza dice ci sono due elementi per cui anche per lei è il tramonto, è l'atto definitivo del tramonto, per quanto ci possa essere una cosa definitiva nella vita degli uomini, ma insomma l'atto definitivo del tramonto è l'edificio berlusconiano, e lei dice ci sono in realtà due ragioni. Una che ha a che vedere con il lungo trascinarsi la crisi Berlusconi, però ce n'è un'altra che guarda allo sviluppo che anche in Italia dal 2013 in poi, dall'elezione 2013, è in corso, e che è in corso in mezza Europa. Allora mi interessava che approfondisse entrambe queste questioni e sul perché, a suo giudizio, poi la seconda è più importante della prima. La prima la conosciamo, però insomma richiamiamola: la crisi del berlusconismo e l'impossibilità negli anni alle nostre spalle di riprendere in mano lo scettro da parte di Berlusconi. Però la seconda ha un aspetto che ci richiama alla crisi europea e non solo agli sviluppi del centrodestra berlusconiano italiano. Allora vediamo questi due aspetti, professore. No, ma io non credo che il primo aspetto sia meno importante, credo che sia semplicemente noto, insomma, visto che il tramonto berlusconiano, come diceva giustamente lei, comincia nel 2011, quindi ormai sono 5 anni che ci conviviamo, ed è un tramonto lento, lento, lento, lento, e quindi abbiamo avuto tutto il tempo di osservarlo e di sviscerarlo. Secondo me c'è meno da dire di nuovo e di interessante. Berlusconi crea la destra italiana, questo è evidente. La destra italiana non c'era, c'era il Movimento Sociale in Prima Repubblica, che però era un partito marginale, piccolo. E la crea proprio con un'elezione amministrativa a Roma, perché quando nel 93 è lui che sdogana, non era ancora sceso in politica Berlusconi, ma lui sdogana Fini, candidato sindaco a Roma, è lì che nasce di fatto. Esattamente, questo è particolarmente interessante effettivamente, cioè Roma diventa il primo passo del laboratorio berlusconiano. E la capacità di Berlusconi di costruire la destra è sostanzialmente la capacità di un federatore che federa perché è più forte di tutti. ed è a tal punto forte da poter proiettare dei pezzi di destra che di per se stessi sarebbero, non sarebbero in grado di andare molto lontano, in grado addirittura di proiettarli al governo. Insomma, gli uomini di Alleanza Nazionale della Lega diventano ministri, occupano cariche istituzionali, e tutto quanto questo grazie a Berlusconi. Quindi nel momento in cui Berlusconi perde questa forza federativa, è chiaro che per i federati diventa molto meno interessante, molto meno opportuno stare con lui, perché non vinci, comunque non vinci, e soprattutto se io ho il 5% e tu il 25%, non c'è dubbio su chi debba comandare, ma se tu ed io abbiamo tutti diciamo tra il 12 e il 15, non è detto che tu debba comandare su di me. Quindi la crisi della leadership berlusconiana è evidentemente uno dei motivi fondamentali di tutto quanto quel che sta accadendo, con il grande punto interrogativo che, avendola creata lui, la destra, non è detto che la destra sia in grado di sopravvivere alla sua uscita di scena. Quindi non è detto che ci sarà un centrodestra competitivo. E questo appunto è il primo aspetto. Perché poi competitivo significa in grado comunque di portare al voto una percentuale che con lui è riuscita a superare il 30%, è riuscita a vincere un'elezione sì, un'elezione no, appunto perché era in grado di superare il 30%. Esattamente, competitiva nel senso che possa mettere seriamente una candidatura alla guida del paese, perché se poi c'è una destra che c'è il 20% e non riesce neanche ad arrivare al ballottaggio a livello nazionale, è chiaro che diventa appunto una destra non competitiva. L'altro aspetto è un aspetto non soltanto italiano e non direi neanche soltanto europeo, basti guardare a Trump negli Stati Uniti, che è l'aspetto dello sviluppo e della crescita di una destra, chiamiamola anti-establishment, potremmo chiamarla populista, potremmo chiamarla antipolitica, sono tutte quante espressioni estremamente insoddisfacenti, forse la meno insoddisfacente è anti-establishment, che si contrappone alla destra invece centrodestra tradizionale che in molti paesi europei è incarnato dai partiti che appartengono al Partito Popolare Europeo. E ovviamente la vediamo in Francia al Front National, l'abbiamo vista da ultimo nelle elezioni locali in Germania con Alternative für Deutschland, l'abbiamo vista in Gran Bretagna con UK Independence Party e la stiamo vedendo anche all'interno del Partito Repubblicano con l'ascesa difficilmente arrestabile di Donald Trump alla nomination. Nonché nell'est Europa abbiamo visto in paesi come la Polonia, l'Ungheria eccetera, l'evoluzione radicalissima che forze che alla caduta del muro erano, dai giovani della Fidesz in Ungheria a quelli che per evoluzione diventano poi il partito di Kaczynski in Polonia, erano liberali, liberisti e promercato alla caduta del muro, lo rimangono per alcuni anni per imboccare poi in questi ultimi anni una strada molto più nazionalista, autarchica, contro l'immigrazione, contro l'euro eccetera eccetera, quindi contratti analoghi a quello che lei sta dicendo. Sì. Con il fatto che nel caso ungherese Fidesz è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, sì, quindi è il partito del centrodestra che si sposta in quelle, sì, posizioni, e anche in Polonia il partito di Kaczynski appartiene al gruppo europeo dei conservatori e riformisti, che se vogliamo è un terzo tipo di destra, sì, che sta, sì, un po' in mezzo alle altre due. Comunque sì, il concetto fondamentalmente è quello. Da questo punto di vista si potrebbe dire, non significa sposarne le tesi per gli ascoltatori, però si potrebbe dire che il drastico innovatore di questa svolta anti-establishment della destra per post-Berlusconi di fatto è Salvini. Non c'è dubbio. Salvini è l'esponente in Italia di questo tipo di destra, che oggi non vince. Appunto, abbiamo detto l'Ungheria e la Polonia, ma sono casi appunto un po' diversi, perché lì non governa un partito di questo tipo, governano partiti di altro tipo che hanno preso posizioni di questo tipo, quindi è un po' diverso. Sì, certo. Però ovunque, adesso vediamo cosa succede appunto effettivamente con Trump, però questi partiti in genere poi non vincono. Però è vero che ci sono tante di quelle sfide ancora attive sul tappeto che appunto, e lo dico senza nessuna soddisfazione assolutamente, queste posizioni potrebbero anche arrivare a crescere, e io penso che Salvini un po' di scommessa di questo tipo la stia facendo. Cioè, lei non esclude che Salvini possa pensare anche di governare. Fino a questo momento sembrava una strategia volta a dire, diciamo, anche al prossimo turno elettorale il problema è levare di mezzo Berlusconi e la sua ipotesi di residua leadership. Vinceranno altri, ma intanto restare in piedi con solidamente il timone e quello che resta in mano di una destra italiana. Tutti avevano più o meno capito che Salvini pensasse a questo. Anche per le stesse risposte di Salvini, che a domanda, dice, ma nel caso chi governerebbe? Beh, quello vedremo, ma non è un problema del domani. Ha sempre più o meno risposto così a chi gli chiedeva la cosa. Lei dice che gli sviluppi sono tali in Europa, la crisi dell'Europa è talmente forte che potrebbe invece anche pensare, e del resto, se mi consente anche una riflessione, non credo che sia un caso che improvvisamente Salvini inizi a dire che nei ballottaggi dove nelle amministrative prossime non ci fosse un candidato della Lega, di Fratelli d'Italia e così via, lui appoggerebbe e voterebbe un candidato dei 5 Stelle. Anche questo è un elemento politico significativo. Su questo le chiedo che cosa può voler dire nell'ulteriore sviluppo di questa destra a trazione anti-establishment, però dopo un minuto perché abbiamo le informazioni sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in diretta a 16:49 primi col professor Giovanni Orsina. Siamo partiti appunto dal suo commento alla frammentazione, ormai la guerra esplicita nel centrodestra berlusconiano, che finisce con l'elezione amministrativa a Roma e la scelta dei candidati, visto che corrà Bertolaso e separatamente correrà Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia con il sostegno di Salvini, e anche molto scherno da parte di Salvini ormai nei confronti di Bertolaso e delle scelte di Berlusconi. Cosa vuol dire, secondo il professor Orsina, il fatto che precisamente proprio in questi giorni Salvini apre, anzi annuncia che nelle città dove in ballottaggio non c'è un candidato della destra in cui si riconosce, vota per i 5 Stelle? La mia impressione è che Salvini non abbia preso una decisione e si tenga aperte almeno 3 strade, e poi vedrà nel corso del tempo quale di queste 3 strade possa funzionare meglio. La prima è quella di tornare alla grande alleanza interna, diciamo, di centrodestra, cosa che però accetterà di fare se vedrà che questa è un'alleanza che ha qualche chance di vincere, perché altrimenti perdere per perdere, secondo me, gli converrebbe perdere da solo. La seconda è quella di scommettere sulla propria crescita autonoma. Quindi diciamo che un occhio a vedere come va a Milano-Parisi, per capirci. Ma secondo me un occhio, innanzitutto noi non sappiamo ancora il voto nazionale quando sarà, potrebbe essere nel 2017, potrebbe essere nel 2018, ha ragione, quindi ha ragione. Il tempo ovviamente ce n'è tanto. Ma poi in mezzo può succedere di tutto, pensiamo al terrorismo, pensiamo alla crisi dei migranti, pensiamo alla situazione economica, pensiamo al voto in altri paesi a partire dal referendum sul Brexit e anche solo limitandoci a quest'anno alle elezioni americane. Quindi, come dire, le parti mobili, le parti in movimento sono tantissime. Quindi lui da un lato dice, vediamo un attimo come si mette, se rientrando nel centrodestra c'è una vera chance di far qualcosa. E le altre due ipotesi? La seconda ipotesi è quella di dire, tanto il centrodestra perde comunque, questa è un'alleanza che non porta da nessuna parte, a questo punto mi conviene rafforzare la mia posizione, soprattutto se alcuni di questi eventi avranno ulteriormente messo vento nelle vele del tipo di destra che rappresenta Salvini. E l'altra cosa effettivamente è che la Lega è un partito di destra anti-establishment. Il che vuol dire che si può alleare con la destra pro-establishment oppure con l'anti-establishment non di destra. Esatto. Più precisamente può allearsi con Berlusconi, la destra più o meno pro-establishment, oppure col Movimento 5 Stelle. Perché noi non sappiamo ancora se il sistema politico italiano reggerà lungo la linea destra-sinistra o non dovesse ristrutturarsi lungo un'altra linea. Sono molto d'accordo con lei. Io credo che poi anche la logica del ballottaggio dell'Italicum riserva sorprese alla luce di tutti i caos che ci sono tra Europa, Euro, Trump, il fatto che si rivota in Spagna, Brexit e così via. Io sono molto d'accordo con questa seconda parte del suo ragionamento, ma la mia opinione conta poco. Io sono convinto che solo nel 2013 c'era una chance per poter dare uno sviluppo, tutto da costruire e verificare, ancora liberal-liberista alla crisi del Berlusconi astensionismo al voto del 2013, persa quell'occasione, lo sviluppo delle forze sociali che sono in atto per la protesta contro l'Europa, l'euro e così via, non poteva che rafforzare la componente che all'epoca è entrata in Parlamento italiano con i 5 Stelle, ma che adesso, come si vede, travolge un po' tutto. Il PD ha cambiato musica politica, visto che vuole sfondare i deficit e il debito pure lui. E quindi. Però, detto questo, i nostri ascoltatori, moltissimi degli SMS dicono tanto a Roma è scritto che sono i 5 Stelle, quindi questo è polvere di stelle, viva i 5 Stelle, dice un ascoltatore, ma ce n'ho almeno 30 di SMS di questo tipo. Miki ci dice, propongo una lettura diversa, non sarà che la destra in Europa ha svuotata le sue funzioni economiche, perché tanto oramai le decisioni sono soprattutto sovranazionali e quelle sovranazionali europee sono in crisi, può essere solo una destra sociale appunto, come questa che è anti-establishment come dite voi, cioè barricadera populista, Miki, più o meno stiamo dicendo la stessa cosa. Sentiamo rapidamente anche alcuni dei nostri ascoltatori che hanno telefonato. Nicola da Chieti, prego Nicola. Salve, buonasera. Buonasera. Allora, niente, sono di destra. Volevo solo dire che praticamente se questa cosa della Meloni, sì, cui rispetto ma non voto perché sono di destra di storace, sì, è stata fatta appunto per scalzare questo benedetto centrodestra, il centro della destra, quindi porre un discorso di destra, ben venga. Però se mi consenta volevo fare un appello appunto a tutta la destra storace, sì, e tutte le altre destre buone e cattive. E questa è la volta buona, ragazzi, se non approfittate a Roma è inutile che facciamo. Cioè dice una volta buona per uscire una volta prodotta dal Cavaliere, ho capito bene? Mi consente anche di dire una cosa, che dai elettori di destra sto registrando su un territorio, sia il mio che fuori dal mio, una voglia di queste destre. No, è questo, lo capisco, perché attualmente c'è solo uno sviluppo molto importante, cioè quello dei 5 Stelle, che hanno una forza e hanno retto in tutti questi anni. Chi credeva che dopo le elezioni scendessero i sondaggi, sono scesi un po', ma poi risalgono. Nicola da Latina, che pensa Nicola? Sì, buonasera. Posso parecchie delle vostre tesi in virtù del centrodestra, però non capisco perché il centrodestra rischi a candidare una persona, a me anche simpatica, devo dire, in un momento così delicato. Voglio dire, è perché è un po' l'impressione che ora sia il momento, approfittando di questo, per vibrare il colpo definitivo. Perché il problema della Meloni a questo punto è che deve andare meglio di Bertolaso, o comunque non significativamente peggio. Ecco, questo è il punto. Come dire, si deve aprire un capitolo nuovo. E del resto anche nei contenuti, Berlusconi è un flip-flop, non si capisce mai cosa pensa. Loro hanno un altro sviluppo. E io ripeto, sono su tutt'altro versante. Però come analista devo dire che posso capire, è una scelta che potrebbe essere tra il suicidario oltre l'ipercoraggioso. Salvini rischia molto meno, ma Salvini è il più forte nel schieramento frazionato pro berlusconiano. Comunque, grazie a Gianni Orsina. Ricordo a chi segue Radio 24 anche la mattina che domani mattina, attenti a noi due con Alessandro Milan, appunto abbiamo chiesto a Giorgia Meloni di venirci a spiegare la sua opinione sugli sviluppi in corso. Continuate con Radio 24.